Oltre il ponte, che ormai è alla sua 10ª edizione, nasce come festa di strada in Bolognina e poi negli ultimi anni ha preso forme e dimensioni differenti a causa dei cantieri che stanno attraversando la Bolognina. È una festa partigiana che nasce all'inizio come ricordo e celebrazione della battaglia della Bolognina e che poi si è sviluppato in un altro appuntamento durante l'anno in ricordo della liberazione di Bologna e che per noi ancora oggi continua ad essere un momento importante per il quartiere e per la città, che porta avanti comunque temi come antifascismo, l'antimilitarismo, rifiuto alla guerra e con un occhio a quelle che sono le criticità che questa città sta vivendo negli ultimi anni: caro affitti, speculazione, impoverimento culturale. Quello che cerchiamo di fare è di coinvolgere associazioni e realtà di quartiere della città per organizzarci e portare un punto critico rispetto a quello che succede in città e nel mondo. Ok, e il programma di quest'anno come sarà? Quali sono i punti focali? Allora, i punti focali di quest'anno, come dal sottotitolo che abbiamo scritto, è una città contro la guerra. Quindi ovviamente il tema palestinese sarà presente come comunque un punto rispetto a quello che sta succedendo a Cuba in Venezuela. L'altro punto che verrà toccato durante l'iniziativa di Donne contro guerra e genocidio è portare quella che è la storia della resistenza partigiana, delle partigiane all'interno della resistenza, e l'altra iniziativa a cura della rete dei comunisti è un focus che va dalle mobilitazioni di quest'autunno, quindi le mobilitazioni per la Palestina e gli scioperi che ci sono stati, fino alla vittoria del no al referendum costituzionale. Ovviamente tutte le altre attività che si svolgeranno che coinvolgono realtà di quartiere parleranno sì di resistenza e di quelle che sono, come ho già detto prima, le trasformazioni che stiamo attraversando in città e nel mondo. Inizieremo sabato 18 aprile con una presentazione di un libro dal titolo L'Ulivo e la Pietra, voce e poesie per la Palestina. Poi ci saranno In Mariposa Live, a seguire Kento e DJ Gaso. Invece domenica ci saranno le due iniziative di cui ho già parlato: spettacolo di Burattini che porta in scena una storia sulla resistenza, un appuntamento con Semi di Zucca, laboratorio per bambini e bambini che in questi mesi sta portando attività per i più piccini al Parco della Zucca, e poi un torneo di calcetto in ricordo del nostro compagno Andrea Bolelli, e poi continuerà con appuntamenti musicali con le Drastic Cover e Bologna Balkan Street.